sapessi come fai a fregarteli così di me, se potessi farlo anch'io ogni volta che tu giochi col nostro addio. Se sapessi come fai a essere sempre così certo che io dico ma alla fine vengo poi sempre a pregarti non andar via. Se sapessi come fai a fregartene così di me, a sapere così bene fino a che punto ho bisogno di te, a saperlo così bene, ancor meglio di me. Sapessi come fai a essere sempre così certo che io dico ma alla fine vengo poi sempre a pregarti non andar via. Se sapessi come fai a fregartene così di me, a sapere così bene fino a che punto ho bisogno di te, a saperlo così bene.